Coffee Break Italian, Season 1, Lesson 37. Buongiorno e benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. I'm Mark with another episode of Coffee Break Italian for you today. And today is my turn to be on the spot because I am in the hotel. Well, the conversation that you're going to listen to was one recorded when I was in a hotel asking for some information. There's lots more Italian in this episode, so let's get started. I am indeed in the hotel. Of course, this is another conversation we recorded on our recent visit to Orta and Stresa in the north of Italy, in Piemonte. And in this episode, we're going to be hearing some of the expressions that we've learned previously when asking for information, but also introduce some new expressions. As usual, we'll listen to the conversation in full. You can have a listen, see how much you understand, and then afterwards we'll go through it in detail so that you can understand every single word in our conversation. Siamo pronti? Allora, cominciamo, ascoltiamo la conversazione. Buongiorno. Salve, come sta? Dormito bene? Sì, grazie. Tutto sta andando bene, Stresa ci piace molto. Ho qualche domanda, ho bisogno di un po' di informazioni. Certo, come posso aiutarla? Mi potrebbe dire se c'è un supermercato aperto la domenica? Tutte le panetterie e macellerie sono chiuse oggi, ma c'è un supermercato piccolo che è aperto. Non c'è un'ampia scelta, ma non è molto lontano dall'albergo. Alla cartina? Sì. Allora, noi siamo qui e il supermercato è qui. Avete una macchina, no? Sì. È a 5 minuti in macchina. Quando arriva sulla strada principale, giri a sinistra. Poi al semaforo vada dritto e continui fino alla chiesa. Il supermercato è sulla destra. Grazie. Se non andiamo in macchina, c'è un autobus? Normalmente sì, ma non ce ne sono molti la domenica. Può andare alla fermata dell'autobus per vedere l'orario. Ok, dov'è? La fermata più vicina è di fronte all'ufficio del turismo. Mi faccia pensare, per arrivare all'ufficio del turismo devo andare dritto dritto, prendere la seconda strada a destra, attraversare la piazza principale e l'ufficio turistico è dietro l'ufficio postale? Esatto, bravo! Grazie molte. Di niente, ci vediamo più tardi. Allora, hai capito tutto? Did you understand everything? Hopefully you've understood quite a bit of this conversation, but it is pretty fast. Of course, it's a real conversation and that's how people tend to speak, so it is certainly a good idea to try to get used to the rhythms and the sounds of the language when they're being spoken by native speakers. Fortunately, the lady in the hotel spoke very clearly, although it was quite quick. Let's go back through our conversation now and I'll help you understand everything. To begin with, the lady asks me a question. Buongiorno. Salve, come sta? Dormito bene? Sì, grazie. Did you pick up that question? Listen again. Buongiorno. Salve, come sta? Dormito bene? Sì, grazie. It was pretty quick. Of course, she asked me, come sta? How are you? Using the formal form. And then she said, ha dormito bene. Dormito comes from the verb dormire, and it means to sleep. So she's asking me, ha dormito bene? Have you slept well? Did you sleep well? Have you slept well? Ha dormito bene? And I answer, yes, indeed I have. Sì, grazie. And then I say, everything's going well. Have a listen to this part. Tutto sta andando bene. Stresa ci piace molto. Okay, tutto sta andando bene. We've heard this sta or sto facendo, sto mangiando, sto cantando. We've heard this form before. So tutto sta andando bene. Andando comes from the verb andare. And if I were to say tutto va bene, that would mean everything is going well. But tutto sta andando bene is kind of reinforcing this ongoing nature. Tutto sta andando bene, because we are experiencing it at the moment as we stay in the hotel in Stresa. Tutto sta andando bene. Everything's going well. And I also said, Stresa ci piace molto. Stresa ci piace molto. We know mi piace. I like something. Something pleases me. Can you work out what ci piace would mean? Ci piace is we like Stresa lots. Or in this case, Stresa to us pleases lots. Stresa ci piace molto. I go on to say that I have some questions. Have a listen to this. Tutto sta andando bene. Stresa ci piace molto. Ho qualche domanda. Ho bisogno di un po' di informazioni. I have some questions. Ho qualche domanda. Now, watch this. Qualche means some, and it's followed by a singular noun. Ho qualche domanda. Una domanda is a question. We've heard that many times. Ho qualche domanda. I have some questions. And then, did you notice I used that bisogno? Ho bisogno. I have need. Di un po' di informazioni. I have need of a little information. Ho bisogno di un po' di informazioni. I need some information. Ho qualche domanda. Ho bisogno di un po' di informazioni. Certo, come posso aiutarla? Mi potrebbe dire se c'è un supermercato aperto la domenica? The lady's happy to help me. She says, certo, of course. Come posso aiutarla? How can I help you? Using the formal form. Listen again to my question and see if you can work out anything about my question. Perhaps you'll have spotted a place in the town or perhaps a day of the week. Mi potrebbe dire se c'è un supermercato aperto la domenica? Have another listen. Mi potrebbe dire se c'è un supermercato aperto la domenica? Okay, let's put the start of this question out of the way for the moment. We'll come back to that. I said, c'è un supermercato aperto la domenica. Is there a supermarket open on a Sunday? C'è un supermercato aperto la domenica. Is there a supermarket open on a Sunday? Aperto la domenica. Notice la domenica. In general, on a Sunday. Is there a supermarket open on a Sunday? Now, I started that sentence with a formula that you can use in many ways. I said, mi potrebbe dire. We've seen potrebbe a couple of times in this group of lessons. It's could. The word could, in this case, could you tell me if? Mi potrebbe dire se. Mi, to me. Potrebbe, could you, dire, to say, se, if. Could you tell me if c'è un supermercato aperto la domenica? Now, you can use mi potrebbe dire and then follow it with a question. For example, we've had mi potrebbe dire se c'è un supermercato aperto la domenica. You could also say something like mi potrebbe dire a che ora chiude la chiesa. What time does the church close, or l'ufficio postale, and so on. Or you could also say, for example, mi potrebbe dire come si chiama? Could you tell me what is he called, or what is she called, or indeed, what is your name? Mi potrebbe dire come si chiama? Can you tell me what you're called, or could you tell me what you're called? That sounds a little more strange. It would be better perhaps asking about someone else, or a fact about something like, c'è un supermercato aperto la domenica. Mi potrebbe dire. Very useful phrase. Now, I've asked, could you tell me if there's a supermarket open on a Sunday? Let's listen to the answer. Mi potrebbe dire se c'è un supermercato aperto la domenica? Tutte le panetterie e macellerie sono chiuse oggi, ma c'è un supermercato piccolo che è aperto. Non c'è un'ampia scelta, ma non è molto lontano dall'albergo. Alla cartina? This is like this situation encountered so often when you're learning a language. You manage to say the question and then the answer comes and it's very, very complicated. We're going to listen to this again. I'll give you a couple of clues. The lady talks about tutte le panetterie. So the panetterie are the bakers. And she also mentions le macellerie. Una macelleria is a butcher's. Now, she then goes on to say that there is a possible solution, and she gives a little bit more information. Let's listen to her whole answer again, and then we'll go through it. Mi potrebbe dire se c'è un supermercato aperto la domenica? Tutte le panetterie e macellerie sono chiuse oggi, ma c'è un supermercato piccolo che è aperto. Non c'è un'ampia scelta, ma non è molto lontano dall'albergo. Alla cartina? Okay, so she says, tutte le panetterie e macellerie sono chiuse oggi, So all the bakers and the butchers are closed today. Sono chiuse. And it's chiuse, C-H-I-U-S-E. The E at the end is because it's the feminine plural. Una panetteria, una macelleria. These are both feminine words. And therefore it's chiuse because that has to agree with the panetterie and macellerie. They're plural and feminine, so chiuse has to sound plural and feminine too, with the E on the end. Tutte le panetterie e macellerie sono chiuse oggi. They're all closed today. Ma c'è un supermercato piccolo che è aperto. But there's a small supermarket which is open. C'è un supermercato piccolo che è aperto. She then explains that non c'è un'ampia scelta. There's not a great choice, a wide choice of things in the supermarket. Ma non è molto lontano dall'albergo. Can you work out what that means? Non è molto lontano dall'albergo. It's not very far from the hotel. Because we're about to talk about directions, she asks, a la cartina, do you have the map of the town? Tutte le panetterie e macellerie sono chiuse oggi, ma c'è un supermercato piccolo che è aperto. Non c'è un'ampia scelta, ma non è molto lontano dall'albergo. Alla cartina? Sì. Allora, noi siamo qui e il supermercato è qui. Avete una macchina, no? Sì. È a 5 minuti in macchina. We are looking at the map together and she asks me another question. Avete una macchina, no? Do you have a car? Una macchina. And she's using the avete. Do you have, because she knows that there's more than one person here, obviously, both Katie and Francesca are with us here in Stresa too. So she says, avete una macchina, you've all got a car, yes? Just going back to the directions or the explanations with the map, she says, noi siamo qui, we are here, il supermercato è qui, and the supermarket is here, pointing to the different places on the map. Did you pick up how far the supermarket is from the hotel? Have a listen again. Allora, noi siamo qui e il supermercato è qui. Avete una macchina, no? Sì. È a 5 minuti in macchina. She said, è a 5 minuti in macchina. It is at a distance of 5 minutes by car. È a 5 minuti in macchina. And then she begins to give the more complicated directions. Let's have a listen. Quando arriva sulla strada principale, giri a sinistra. Poi al semaforo vada dritto e continui fino alla chiesa. Il supermercato è sulla destra. I'll let you hear that again, just so that you can pick up all those directions. Quando arriva sulla strada principale, giri a sinistra. Poi al semaforo vada dritto e continui fino alla chiesa. Il supermercato è sulla destra. Okay, I'll slow those down, she said. Quando arriva sulla strada principale, when you arrive on the main street, giri a sinistra, turn left. Poi al semaforo, vada dritto. Then at the semaforo, that's the traffic lights, vada dritto. You know what that means, go straight on. E continui fino alla chiesa. So continue as far as the church, la chiesa. Il supermercato è a destra. So where is the supermarket in relation to the church? It's on the right. So quando arriva sulla strada principale, giri a sinistra. Poi al semaforo vada dritto e continui fino alla chiesa. Il supermercato è a destra. Quando arriva sulla strada principale, giri a sinistra. Poi al semaforo vada dritto e continui fino alla chiesa. Il supermercato è sulla destra. Okay, now I ask another question. See if you can work out what I'm asking here. Grazie. Se non andiamo in macchina, c'è un autobus? I said, se non andiamo in macchina, c'è un autobus. If we're not going by car, is there a bus? Let's have a listen to the lady's answer. Normalmente sì, ma non ce ne sono molti la domenica. Può andare alla fermata dell'autobus per vedere l'orario. Again, quite a quick answer here. She says, normalmente sì, normally yes, ma non ce ne sono molti la domenica. This is quite tricky. Ci sono, there are, and when you put a ne in there, First of all, the ci becomes a ce, and the ne refers to of them. So let's think about this carefully. If we wanted to say, there are lots of buses, we could say, ci sono molti autobus. Okay? If we wanted to say, there are lots of them, then the autobus is going to be replaced by this little word ne, meaning of them. And because it sounds funny in Italian to say ci ne, you change the ci to a ce, and we say ce ne sono molti. Ce ne sono molti. But of course here there aren't lots of them. Non ce ne sono molti. Certainly not on a Sunday, la domenica. Normalmente sì, ma non ce ne sono molti la domenica. She actually explains how we can find out the timetable for the bus. Normalmente sì, ma non ce ne sono molti la domenica. Può andare alla fermata dell'autobus per vedere l'orario. She says, può andare, you can go, alla fermata dell'autobus, to the bus stop, per vedere l'orario, in order to see the timetable. So splitting that up, it's fairly straightforward. Può andare alla fermata dell'autobus per vedere l'orario, to see the timetable. My next question, of course, is where is it? Dov'è? Talking, of course, about the fermata dell'autobus. So, dov'è? Ok, dov'è? La fermata più vicina è di fronte all'ufficio del turismo. Did you pick up where that was? La fermata più vicina, the nearest bus stop, è di fronte all'ufficio del turismo. It is opposite the tourist information office. Di fronte, it's facing the tourist information office. We had been in Stresa for a day or so, and I knew, or at least I thought I knew, where the tourist information office was. So I offer my description of where it is to check that I do indeed know. Have a listen. Mi faccia pensare. Per arrivare all'ufficio del turismo, devo andare dritto dritto, prendere la seconda strada a destra, attraversare la piazza principale e l'ufficio turistico è dietro l'ufficio postale? Okay, so I start by saying, mi faccia pensare, let me think. Per arrivare all'ufficio del turismo, in order to arrive at the tourist information office, devo andare dritto dritto. I have to go straight on, straight on. Prendere la seconda strada a destra. You can work out what that means. Take the second street on the destra, the right. Attraversare la piazza principale. So that would be cross the main square. Attraversare, to cross, la piazza principale. E l'ufficio turistico è dietro l'ufficio postale. And the tourist information office is behind the post office. And it seems that this is correct. Mi faccia pensare. Per arrivare all'ufficio del turismo, devo andare dritto dritto, prendere la seconda strada a destra, attraversare la piazza principale e l'ufficio turistico è dietro l'ufficio postale? Esatto, bravo! And with that, I thank the lady at the hotel reception. Grazie molte. Di niente, ci vediamo più tardi. She finishes by saying, ci vediamo più tardi. We will see each other later. Ci vediamo più tardi. Okay, it's time now to listen once more to the whole conversation and hopefully this time you'll understand everything. Buongiorno. Salve, come sta? Dormito bene? Sì, grazie. Tutto sta andando bene. Stresa ci piace molto. Ho qualche domanda. Ho bisogno di un po' di informazioni. Certo, come posso aiutarla? Mi potrebbe dire se c'è un supermercato aperto la domenica? Tutte le panetterie e macellerie sono chiuse oggi, ma c'è un supermercato piccolo che è aperto. Non c'è un'ampia scelta, ma non è molto lontano dall'albergo. Alla cartina? Sì. Allora, noi siamo qui e il supermercato è qui. Avete una macchina, no? Sì. È a 5 minuti in macchina. Quando arriva sulla strada principale, giri a sinistra. Poi al semaforo vada dritto e continui fino alla chiesa. Il supermercato è sulla destra. Grazie. Se non andiamo in macchina, c'è un autobus? Normalmente sì, ma non ce ne sono molti la domenica. Può andare alla fermata dell'autobus per vedere l'orario. Ok, dov'è? La fermata più vicina è di fronte all'ufficio del turismo. Mi faccia pensare. Per arrivare all'ufficio del turismo, devo andare dritto dritto, prendere la seconda strada a destra, attraversare la piazza principale e l'ufficio turistico è dietro l'ufficio postale? Esatto, bravo! Grazie molte. Di niente, ci vediamo più tardi. Allora, è tutto per oggi. That's all for this lesson of Coffee Break Italian. We hope you've enjoyed it. Now, if you are listening to the main episode here and you're just listening to the audio version, then you may be interested to know that there is a video version available. And you can find out more about that at coffeebreakitalianplus.com. It's part of our members' materials, and in our members' materials we also have a full set of notes, and there's even a bonus listening exercise or a bonus listening episode. We've been recording some interviews with some of the people that we met while we were in Italy, and these are all featured with full explanations, of course, in our bonus materials. You can find out all you need to know at coffeebreakitalianplus.com. That's where we're going to leave it for this episode. You can, of course, visit the website at coffeebreakitalian.com and visit us on Facebook. That's facebook.com/coffeebreakitalian. We're also Learn Italian on Twitter, and hopefully you'll be able to find us somewhere, be it on the website or on social media. We'll be back again soon with more Coffee Break Italian for you. In the meantime, grazie molte e arrivederci. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.